551. Maiale arrostito nel latte. Prendete un pezzo di maiale nella lombata del peso di grammi 500 circa. Salatelo e mettetelo in cazzaruola con decilitri 2,5 di latte. Copritelo e fatelo bollire ad agio finché il latte sarà consumato. Allora aumentate il fuoco per rosolarlo e, ottenuto questo, scolate via il grasso e levate il pezzo della carne per aggiungere in quei rimasugli di latte coagulato un gocciolo di latte fresco. Mescolate, fategli alzare il bollore e servitevene per rispalmare delle fettine di pane appena arrostite, onde servirle per contorno al maiale quando lo manderete caldo in tavola. 3 decilitri di latte in tutto potranno bastare. Cucinato così il maiale riesce di gusto delicato e non istucca. 552. Pesce di maiale arrosto. Il pesce di maiale è quel minuscolo bislungo posto ai lati della spina dorsale che a Firenze si chiama lombo di maiale. Colà si usa di staccarlo insieme con la pietra e in cotesto modo si presta per un arrosto eccellente. Tagliatelo a pezzetti e infilatelo nello spiede, tramezzandolo di crostini e salvia, come si usa con gli uccelli, e ungetelo come questi con l'olio.